a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata per A Regola d'Arte, un saluto da Francesco Galante. Anche oggi scopriamo delle belle realtà collegate all'UPA. Proprio per questo vado subito a salutare il presidente di ANAP Padova, Raffaele Zordanazzo. Ben trovato. Buongiorno. Intanto le vorrei chiedere che cos'è ANAP. L'ANAP è un'associazione nazionale anziani pensionati, costituita all'interno della Confartiglia NATO nel 1973, quale deriva organizzativa di categoria senza finalità di lucro, rappresenta, tutela, difende gli anziani e i pensionati. In pratica, per chi si iscrive all'ANAP c'è il vantaggio di sapere che c'è qualcuno che lo segue, interviene presso enti e istituzioni per risolvere i problemi tipici della terza età, e poi c'è qualcuno che organizza manifestazioni, iniziative di carattere sociale rivolte proprio alla popolazione anziana. Praticamente chi era artigiano, una volta che ha smesso di lavorare, può iscriversi all'ANAP. Certamente. Innanzitutto un artigiano che è sempre stato all'interno della Confartiglia NATO, proseguire l'attività da pensionato sempre all'interno del gruppo Confartiglia NATO che è aderente all'ANAP, vuol dire continuare a appartenere alla famiglia Confartiglia NATO. Dicevo, ci sono anche dei vantaggi importanti che vengono presentati a chi si associa. Vantaggi ce ne sono tantissimi. Il primo vantaggio è quello di essere convenzionati con l'assicurazione in caso di ricoveri ospedalieri, incidenti stradali e furto, visite mediche e prestazioni di laboratorio a tariffe convenzionate, convenzioni con i studi dentistici e odontotecnici. La terza ANAP è una copertura assicurativa con diaria in caso di ricovero ospedaliero. Da quest'anno poi i 5 giorni di franchigia previsti in caso di ricovero dalla polizza nazionale li paghiamo noi come ANAP Padova. Poi da quest'anno abbiamo istituito un fondo di solidarietà che servirà in caso di necessità a aiutare qualche anziano pensionato in difficoltà, socio ANAP. E poi ci sono anche tante belle iniziative a carattere ricreativo. Certamente, noi abbiamo moltissime iniziative di carattere ricreativo, escursioni, visite e città e luoghi in particolare di interesse, soggiorni climatici e estivi, crociere, cure termali, incontri conviviali, feste e incontri tra pensionati. Da ultima abbiamo fatto la visita a Modena, dove abbiamo visitato il museo Enzo Ferrari, che è stata una giornata meravigliosa e abbiamo avuto un seguito di oltre 75 persone, quindi una giornata culturale molto interessante. Certo, poi ricordiamo la festa dei 70 anni di UPA, insomma le iniziative sono molte. Quest'anno è stato un anno particolare per noi perché l'UPA compiva 70 anni. Abbiamo fatto la festa di San Giuseppe iniziando con una trionfale ed emozionante cerimonia al santuario di Sant'Antonio con oltre 400 persone. La cerimonia è stata celebrata da padre Poiana che ci ha accolti con un entusiasmo che tutti quanti siamo stati soddisfattissimi. Poi abbiamo terminato il percorso della festa all'antica Postumia di Vedelago, uno dei locali che può permetterci di ospitarci tutti perché eravamo stracolmi in sala, quindi partecipazione di grande interesse. Ecco, volevo chiederle anche un'altra cosa, come ANAP fate anche degli incontri con dei momenti di informazione per esempio per la salute? Beh, certamente noi cerchiamo di far coincidere la convivialità, la cultura, ma anche la formazione. Quindi noi abbiamo fatto delle giornate informative sulla truffa agli anziani, momenti di informazione a favore del benessere, salute, farmaci, infortuni domestici, la campagna di sensibilizzazione all'Alzheimer, iniziative di solidarietà e volontariato per far fronte alle crisi e favorire la sensibilizzazione. Sono molte quindi le motivazioni che possono spingere un ex artigiano a iscriversi all'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati. Poi leggevo che ci sono anche numerose convenzioni per cui uno che è iscritto all'ANAP ha degli sconti con molte ditte, con molte società. Iscrivendosi all'ANAP nazionale abbiamo un valore in più. Praticamente ci possono essere sconti sull'ACI, su molti hotel, praticamente su sconti benzina, abbiamo tantissime convenzioni. Ecco, io leggevo per esempio anche cose che ci sono delle convenzioni che toccano magari l'interesse dei pensionati che hanno una certa età, quindi alcune aziende per sentire meglio, no? Che vendono apparecchi acustici. Ma certamente noi di tutte queste cose siamo convenzionati e quindi basta entrare nel sito e ci sono tutte le ditte, tutte quante le convenzioni che noi abbiamo, perché adesso sono talmente tanti che è difficile elencare tutte quante. Certo, però ce n'è una in particolare che è stata fatta con AIM Energy per la fornitura di elettricità e gas. Ecco, questa è un fiorello. Da 2 anni abbiamo fatto questa convenzione noi come Confartigianato per avere l'energia e gas per le aziende. Questa convenzione con l'AIM Energia la possiamo fare anche con i privati e soprattutto per i pensionati. Quindi, anche qua c'è la possibilità di avere un controllo delle condizioni pattuite. Allora, esatto, prima cosa c'è la massima trasparenza, la massima informazione e praticamente siamo seguiti dal nostro consulente, dottor Michele Baruffa, che è il nostro tutore, diciamo, della legalità di questa iniziativa. Quindi abbiamo possibilità di avere risparmio garantito, tutela, conduzione, assistenza, quindi io credo che per un anziano che non vuole essere truffato, qua abbiamo il biglietto da visita gratuito, insomma, ecco. Vabbè, anche questa è una bella iniziativa dell'ANAP attraverso l'UPA di Padova, la convenzione con AIM Energy. A questo punto io la saluto per essere stato con noi, ricordo il presidente di ANAP Padova, Raffaele Zordanazzo, tanti auguri e buona continuazione. La ringrazio. Un augurio a tutti di tanta salute e grazie. Grazie a lei per il suo intervento. Ricordiamo che per saperne di più ci si può rivolgere allo sportello ANAP provinciale presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani in piazza De Gasperi 22 a Padova. Il coordinatore è Simone Pegge, potete mandare una email a simone.pegge@upa.padova.it. E adesso un po' di musica. Hasta luego, hasta luego. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. J'ai vu ma ville grandir, puis se diviser en deux parties à travers les années. Sans fin. Hasta luego. Je ne fais que passer par là. Hasta... trouver la sortie. Je voulais disparaître comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Hasta luego, hasta luego, comme un cavalier solitaire. Hasta luego, hasta luego, comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Eccoci tornati a Regola d'Arte per continuare a parlare di appuntamenti anche che riguardano l'UPA di Padova. C'è un appuntamento interessante, Artigiani in Festa, organizzato dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova nell'ambito della Festa della Trebbiatura di Campodoro. Domenica 19 giugno 2016 c'è una festa con un ricco pranzo nella tenso struttura della Fiera di Campodoro, dove evidentemente sono invitati tutti gli artigiani a partecipare. Proprio per parlare di questo abbiamo con noi al telefono Stefano Furlan, presidente del mandamento di Piazzola sul Brenta dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora parliamo di questa bella festa che sarà domenica 19 giugno nella tenso struttura della fiera a Campodoro. Sì, abbiamo pensato di unire queste due feste perché praticamente il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'artigianato vanno di pari passo praticamente, da quando, come l'uovo con la gallina, non sa chi sia nato prima praticamente. In quei giorni infatti a Campodoro c'è la festa della Trebbiatura. Effettivamente c'è questa festa della Trebbiatura e noi ci siamo proposti all'interno di questa manifestazione per festeggiare il nostro 70° anno dell'UPA praticamente, con una manifestazione in cui c'è un capannone, una tenso struttura in cui ci sono gli artigiani che espongono il loro prodotto, e inoltre domenica 19 ci sarà un pranzo conviviale con tutti quelli che vogliono partecipare all'interno dello stand gastronomico praticamente. Benissimo, diciamo che la festa della Trebbiatura parte dal 17 e poi continua fino al 22 giugno. Il clou per voi è proprio questa domenica 19 giugno, dove c'è un ricco menù e c'è proprio questa voglia di stare insieme, insomma. Sì, esattamente, abbiamo fatto un menù un po' particolare per festeggiare questo anniversario, insomma. Ovviamente bisogna preiscriversi per partecipare a questo appuntamento. Sì, basta chiamare il nostro segretario di zona che è Andrea Fabris, adesso sotto mano non ho il numero, però lo potete contattare tramite le sedi e lui sarà lieto di prendere nota di chi vuole partecipare. Ecco, allora il numero ce l'ho io di Andrea Fabris, lo diamo, che è il 348 45 43 643, oppure appunto si chiede informazioni, ecco, presso l'UPA. Volevo far presente che c'è anche il nostro presidente provinciale Roberto Boschetto e molto probabilmente ci sarà anche il segretario generale Antonio Berengano. Nel menù che avete previsto di questa festa c'è intanto un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto, dolce, caffè. Sì, di fare un antipasto, un primo piatto che è un risotto di provola, prosecco, poi ci sarà della tagliata di manzo che è la nostra specialità, delle verdure miste, il dolce, il caffè. Il costo per questo pranzo per gli adulti è di 20 euro, mentre per i bambini avete pensato anche, insomma, per far venire tutta la famiglia. Sì, esattamente, è siccome è un prezzo un po' per far venire le famiglie degli artigiani, per i bambini è di 10 euro perché abbiamo pensato di far partecipare le famiglie intere degli artigiani praticamente. Benissimo, allora c'è tempo, ricordo, fino al 15 giugno per segnalare la vostra adesione a questa bella festa che c'è a Campodoro domenica 19 giugno. Per altre informazioni ricordo il sito dell'UPA, upa.padova.it. Ringrazio a questo punto il nostro ospite Stefano Furlan, presidente del mandamento di Piazzola sul Brenta dell'UPA di Padova. Buona festa anche a lei allora. Grazie, aspetto anche a lei allora. E siamo arrivati anche ai saluti di questa ennesima puntata di A Regola d'Arte. Vi ricordo che altre informazioni le potete trovare sul sito dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova all'indirizzo www.upa.padova.it oppure ai profili sociali di UPA su Facebook, Twitter e YouTube. A tutti un saluto da Francesco Galante e appuntamento per A Regola d'Arte alla settimana prossima. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.